Benvenuti, benvenuti al 47esimo episodio del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E quest'oggi con noi due ospiti speciali, una già stata, una come dire, già comparsa in una precedente puntata e una nuova aggiunta, che sono state tra l'altro fonte di ispirazione, nonché principali oratrici di questa puntata. Lasciamo che si presentino. Ciao, io sono Laura, sono già stata a parlare di visual novel, perché ovviamente è il mio setting principale. E io invece sono Giulia, piacere, sono la nuova aggiunta e speriamo che vada tutto bene. In realtà erano già entrambe, tra l'altro, presenti per la preparazione alla puntata precedente. Sì, beh, sono due appassionate nel nostro podcast, ci seguono sempre. Esatto, ci ascoltano sempre. Conoscono le puntate a menadito, esatto. Ormai. Comunque, grazie, complimenti. Posso recitarle a memoria. Madonna, incredibile. Comunque Marco, grande introduzione, quasi come se l'avessi fatta così, in maniera spontanea. Prima se fosse la prima volta, Marco. Esatto, come ogni volta. Mi è uscita come... dal cuore, non so nemmeno da dove mi sia arrivata. Veramente bellissima, mi hai commosso. Prima di cominciare, in realtà abbiamo una rubrica, abbiamo due rubriche, però la seconda la saltiamo perché è troppo deprimente. Quindi faremo solo la prima. No, ma a noi piacciono le cose deprimenti, cioè... Andiamo sulla questione. No, è veramente troppo pesante. Visto l'argomento di quest'oggi, direi che forse anche un po' di automasochismo sia... Ah sì, è necessario. Faccia parte del setting, mettiamo. È vero, però vabbè, intanto partiamo con la prima, poi vediamo dove ci porta il cuore. La prima rubrica è semplicemente cosa abbiamo giocato questi ultimi tempi, insomma. 47 puntate e ancora non abbiamo trovato un titolo. Non c'è un nome. Sì, vogliamo solo avere un pretesto per parlare di cose. E teniamo aggiornati per capire che cosa, così anche il nostro pubblico sa di quello che più o meno stiamo parlando, visto che sanno che cosa spazio mentale, diciamo. Esattamente. Quindi ti ho sentito eccitato, quindi mi sa che tu vuoi portarci qualcosa questa settimana. Ah, ok. No, oppure io ho qualcosa, ma anche bene. Tu hai qualcosa. Allora, io in realtà brevemente direi solo che ho iniziato Disco Elysium e ho nella prima giornata di gioco, perché il gioco è diviso tipo in giornate, la mia voce interna mi ha detto di fermarmi e di riportare in auge il comunismo. E quindi mi sono già innamorato. E poi è successo anche nel gioco. Cioè, anche nel gioco la mia voce interna mi ha fermato per dirmi di portare in auge il comunismo. E io ho capito che era gioco per me. No, è stupendo. I dialoghi sono stupendi, sto ridendo come un dannato, però ho dovuto metterlo in pausa perché poi, a sorpresa, il giorno dopo è uscito Halo Infinite. È vero. Quindi ho iniziato a discorrere, mi ignaro che uscisse Halo Infinite, e poi il giorno dopo, a sorpresa, hanno fatto uscire la beta multiplayer di Halo Infinite, e quindi... praticamente non ho fatto altro, cioè nel senso mi sono sfondato di Halo Infinite, è bellissimo, è spettacolare, è pieno di problemi con la progressione e diciamo le customizzazioni, cioè come ti fai a personalizzare il personaggio, quanto costano le skin, i colori, queste cose qua, è pieno di problemoni, però è una beta, non è davvero uscito ma sarà un live service, quindi lo aggiorneranno. C'è la possibilità di miglioramento e il gioco in sé è il migliore Halo multiplayer, secondo me, dai tempi di Halo 3 del 2007, quindi sono veramente euforico. Marco, non so se vuoi continuare tutto e passiamo a quest'onda. È un sentimento che alla fine ha contagiato anche me, perché anch'io sono stato sorpreso dall'uscita così imprevista di Halo Infinite, franchise che sinceramente mi aveva interessato molto poco, come ho già detto altre volte in questo podcast, però era gratis, quindi e che fai, non lo scarichi, non esatto. Lo provi. L'ho provato e devo concordare con Jacopo, anche per uno che di sparatutto non se ne intende proprio, è veramente divertente, il gameplay è davvero davvero divertente, poi c'è ovviamente tutta la parte che diceva Jacopo di microtransazioni, estetica, così, ma quella ormai è diventata purtroppo standard ormai del settore, però almeno il gioco è divertente, è veramente divertente. Quindi Jacopo si è sfondato, Galo, sì. Io mi sono sfondato leggermente meno di lui, però anch'io di sicuro ci ho dato dentro. No, è cocaina, è cocaina, è un abbraccio, però è anche cocaina, cioè tutte, è eroina e cocaina insieme praticamente quel gioco, è come me lo ricordavo, è tipo la mia infanzia, la mia, vabbè no, non solo la mia infanzia, anche la mia adolescenza, come me la ricordavo, cioè, non lo so, sono contento che anche tu, insomma, da meno nostalgico riconosci che il feeling del gameplay è buono. Il feeling c'è, assolutamente. Ma forse mi ci staccherò un po' nei prossimi giorni, perché adesso devo platinare Dark Souls 3, quindi rivedremo quando ci rivedremo. Il dovere che ha. Detto questo, se non hai altro... Beh, le nostre ospiti sentiamo, se vogliono. Esatto, andrei alle nostre ospiti, se avete qualche gioco che avete giocato ultimamente. Volete condividere, ovviamente, magari... Sì, sì, non vi va, sti cazzi. Cioè, se non anch'io volete... tengo i giochi porno per me, non li metto qua nel podcast. Ma loro sono crashati di nuovo e quindi... No, dai, non ci credo. Vabbè, sta cosa è follia. Sembrava non stessero più partecipando. Infatti eravate rimaste un po' in silenzio, quindi... Ce l'avamo sorpresi, ok. Vabbè, sono tornate. Fino a dove avete sentito, più o meno? Nel senso, sono rimasta a voi che dite cosa stavate giocando. Quanto fosse vabbè, non importa, perfetto. Andiamo avanti, diteci voi cosa state giocando, prima che crashate di nuovo. Vai, Laura. Allora, io sto giocando ad Animal Crossing, perché adesso si può cucinare, e quindi la mia vita cambiata è meglio. Giusto. Bravo. E poi... basta, un po' The Witcher ogni tanto, ma sono un incapace, ci metto troppo a giocarci. E poi abbiamo scoperto che la versione PS4 ha dei problemi con il controller, in cui ogni tanto non riesce a castare i sign. Esatto, così a random. Non so, ma PlayStation 5, risolviamo tutti i problemi. Sì, veramente, comunque sì, cioè, ci sono un po' di problemi tecnici con la Play 4, però ogni tanto ci gioco. E poi occasionalmente a Overwatch, ma adesso ho smesso perché mi è scaduto l'abbonamento e non ho i soldi per rifarlo. Abbonamento? Che abbonamento, scusa? Il PS... PlayStation Plus. Ah, ok, scusa. Sì, pensavo abbonamento per Overwatch. Da quando? No, quello non siamo ancora in questi livelli. Esatto. Prego, Giulia. Cosa sto giocando io? Anch'io ad Animal Crossing, perché appunto condivido l'isola con Laura. Ah. E anch'io cucino un sacco, mando via i villager indesiderati. Vabbè, ovvio, cioè, quello è la parte più importante. Gioco a Bayonetta 1 per la PlayStation 3. Wow! Purtroppo Marco è ben consapevole di questa cosa, perché abbiamo avuto vari problemi con la PlayStation, ma il nostro Salvatore è venuto ad aiutarci, quindi adesso posso giocare con tranquillità. L'unica ragione della mia esistenza. Esatto, aggiustare le cose. Marco, sì, quando Marco si avvicina a un oggetto elettronico inizia a funzionare automaticamente. Wow. Perlomeno a casa nostra, quindi. Anche quando viene nominato così. Ti dico, alzati e computa. E Marco, sei l'opposto dell'idea che hanno i miei di me. Tipo, appena mi avvicino a un router e smette di funzionare. Benissimo. E quindi sì, sto giocando a Bayonetta, mi diverto molto perché comunque sono reduce dai primi tre Devil May Cry, quindi sono molto contento e mi diverto molto, mi diverte come gameplay, molto, molto stupido, molto vecchio, ignorante, ma mi piace così. Abbiamo parlato di Bayonetta quando abbiamo fatto quella puntata, diciamo, sui videogiochi che avevano uno stile un po' più unico che raro, quindi... Sì. Ha il suo perché. Tanti perché si può dire. Ha tante domande anche, sì. Non solo perché, anche come. Esatto. Sì. Ma è giusto così, si risolve con la magia alla fine. Esatto. Del gioco. La risposta è Camilla. Sì, scusa. Esatto. Vai. Esatto. Infine, ultimo, soprattutto per importanza, abbiamo Genshin Impact. Questo è tematico, però è topica. Infatti c'è un motivo se abbiamo deciso di avere voi come ospiti di questa puntata, d'altronde. Esatto. Bene, e penso possiamo aspettare ancora un attimo prima di entrare nei dettagli, perché sarà, come dire, un argomento importante di stasera. Esatto. Jacopo, dicevi? No, stavo dicendo appunto, cioè, io in realtà finisco qui, nel senso, adesso... Quindi saltiamo la parte depressiva, allora, o...? No, allora... Io potrei riassumere dicendo semplicemente due parole che ho ripetuto per gli ultimi 20 podcast, ovvero Activision Blizzard. E questa volta potrei dire altre due parole, ovvero Bobby Kotick, e smettere di parlare, perché è veramente depressiva, è veramente indecente, e quindi preferirei... Però qualcosina forse non è ancora del tutto chiusa, quindi non lo so... Siamo ottimisti. No, non so, avevi qualche notizia che ti interessava? No, era quella, alla fine, forse, se il mondo girasse un filino come dovrebbe, Bobby Kotick non potrebbe non passarla così liscia, ci si spera, lo si prega. Va bene, allora ti dico questa. Allora, dico solo questa notizia perché è stupenda. Allora, ci sono stati degli scandali in Activision Blizzard, è quello di cui abbiamo parlato negli ultimi 20 podcast. Scandali di violenze sessuali, problemi, insomma, di una cultura tossica. E tra i vari problemi, insomma, che denotavano questa cultura tossica, c'era il problema dello stipendio. Quindi la stessa persona, la stessa... posizione all'interno della compagnia, presa da due persone diverse, una donna e un uomo, l'uomo era pagato di più. Questa cosa ovviamente c'è in tutte le industrie, cioè è un problema sistematico, non è solamente industria dei videogiochi che fa questo, però è venuto fuori in particolare, c'erano dei casi eclatanti proprio in Activision Blizzard, molto gravi, e quindi... Quasi ridere da quanto... Esatto. Quanto è estremo, comunque. Quando venne fuori questo, diciamo, ambaradano, questo scandalo, no? Jason Schreier, articoli, Bloomberg, cose così, Activision Blizzard ha detto: ah, fermi tutti, allora dobbiamo risolverla questa cosa, è un problema. Dovevano pararsi il culo per gli investitori. Prendiamo una ex... leader di uno qualche, non mi ricordo da dove è venuta, da qualche azienda tech, non mi ricordo, una manager donna, e la mettiamo come co-leader, cioè invece di avere solo un leader, diciamo, esecutivo nella compagnia, che era, mi pare, oddio, non mi ricordo il nome del tizio, un nome strano, invece di avere solo questo qua, c'è anche questa tizia, questa donna, quindi è arrivata a causa dello scandalo, se n'è andata 3 mesi dopo, tipo, una cosa del genere. Ed è venuto fuori, in un altro scandalo, che era pagata di meno dell'altro co-leader maschio, capito? Quindi hanno assunto... Sì, la cosa era che proprio erano stati... Geniale. Assunti insieme, con lo stesso identico ruolo, proprio co-leader, praticamente, co-manager, non ricordo il preciso... Però poi è saltato anche subito fuori tra di loro che lei veniva pagata meno di lui. Giustamente. Lui aveva supportato in questa, chiedendo anche che come dire, lo stipendio fosse adeguato. E poi se n'è andata subito dopo perché non è servito a niente. Solo adesso, no, esatto. Tutto il macello è saltato fuori anche questo. Giusto per buttare altra benzina. Comunque sì, Jen O'Neill è quella che se n'è andata. Tra l'altro ora lavora per delle... No, come si dice, no profit, comunque delle benefit per appunto questo problema di discriminazione. Mikey Barra giustamente è rimasto perché è uno dei compagnoni, insomma, di Activision Blizzard, quindi vabbè. Volevo solo dire questo dettaglio che mi ha fatto molto ridere quando l'ho scoperto e mi ha anche depresso, quindi le cose che fanno ridere ma che deprimono sono sempre le migliori per me. Le ben belle. Tra l'altro, altro, vabbè, da qui si spiegano molte cose, okay. Non ci penso, della mia visione. Tra l'altro anche detto questo, poi la spiegheremo ora dopo. Io e te non ci siamo detto messi d'accordo sul titolo, perché secondo me era saltato fuori una volta scorsa e mi sembrava fosse azzeccato. Io il titolo di questa puntata l'avrei chiamata, ecco la frase corretta, 5 stars. Ah, vero, sì. Perché? Perché in questa, nella puntata di oggi, con l'aiuto dei nostri ospiti, cercheremo di parlare un po' dei gacha games. E quindi... Orrore. La tortura più... Quando odi te stesso, cosa fai? Scarichi un gacha games. E allora, con calma, arriviamo anche all'automasochismo. Jacopo, vuoi dare tu la definizione di gacha game? Assolutamente no. Assolutamente no. La vogliono dare i nostri ospiti? Oddio, io tecnicamente non saprei come definirlo. Cioè... Gacha games può essere tante cose, nel senso di base, però c'è la questione del pescare, appunto, come dicono in italiano, è bruttissimo come termine. Ma il concetto è quello. È pescare dei personaggi utilizzando dei token che ti vengono dati o che guadagni nel gioco. E che paghi con i soldi veri. O che paghi con soldi veri, succede anche questo, esatto. Molto frequentemente, anzi esatto. È normale abitudine, mm-hmm. E, sperando di pescare comunque qualcosa di bello, che sia appunto un five star. Esatto, un personaggio, un'arma o cose simili. Laura, mi sorprende che tu non abbia aggiunto, come dire, l'origine del nome Gacha Game, perché penso che sia carino anche dirlo. Ah, da Gashapon dici? Beh, giustamente. Sì, cos'è Gashapon? Sono, vai Laura, questo è il tuo momento. Sono quelle macchinette che hanno in Giappone, quello dove infili una moneta da 100 o 200 yen in base, okay. E poi giri ed esce la, come dire, la pallina di plastica con dentro il portachiavi, la quello di Steins Gate. Sì, esattamente, sono diventati famosi anche nella cultura, come dire, popolare, questi gachapon che sono, mm-hmm. come appena spiegato, mi saranno le macchinette da cui escono tipicamente action figure, per questo sono stati molto ricollegati, perché le action figure rappresentazioni di personaggio come rappresentazioni di personaggio dentro un gioco. Esatto, sì. E... Però sono piccolini, nel senso non sono action figure grandi di solito. E come dicevo, appunto, il modello di business è che uno non sa quello che riceverà da queste macchinette, quindi è sempre il fattore sorpresa, che se non si fa attenzione diventa il fattore gioco d'azzardo molto facile. Esatto, ludopatia. Ludopatia, precisamente. Perfetto. E che dire, volevo iniziare dicendo subito una stronzata, cioè che se uno ci fa caso... I gacha game esistono da Shenmue. Sì. Perché vero. Shenmue è stato il primo videogioco che, tra virgolette, ha implementato la meccanica dei gacha con una con un gachapon, una gacha machine. Esattamente. Esatto. Infatti il protagonista di Shenmue, tra le varie, come dire, side quest della storia principale, poteva spendere i soldi guadagnati nel gioco alle macchinette gacha. Duramente, dovevi lavorare per guadagnarli. Esattamente. Guadagnati proprio letteralmente. Sì, sì. Facendo l'operaio proprio nei porti e cose del genere, li poteva spendere alle macchinette dei gacha. E una cosa che potrebbe succedere anche in Yakuza tranquillamente, che poi c'è una cosa simile perché ci sono gli UFO catcher in Yakuza, vero, letteralmente devi comandare l'artiglio e prendere i premi per i bambini per fare le side quest. Ma anche quello è considerato un gacha? No, infatti mi ero informato, quello no. Ma quello non è propriamente gacha. No, infatti no. Mi sono sorpreso nello scoprire che non c'è in Yakuza. Io avrei giurato che ci fosse. No, perché ci sono gli UFO catcher. Sì, esatto. Quindi hanno escluso l'altro, forse perché tutto sommato sono abbastanza simili come concetti, però. E poi perché tecnicamente l'UFO catcher di solito in Giappone sta nella sala giochi. I gachapon non sempre, quindi... Li trovi ovunque, a dire il vero. I gachapon sono dappertutto. Dagli angoli delle strade sono... Sì, sì, come i distributori di bibite. Li trovi esatto, a ogni angolo. Ci sono quelli e un gachapon. Io ricordo che da bambino, anche in Italia, c'era... Sì, anche in Italia, sì. Che sono praticamente scomparsi. Le comuni del Pooh. Però c'erano all'inizio, mi ricordo che c'erano. Sì, ma... E quindi, Scrouse, piccolo, come dire, aneddoto di contorno con Shenmue, che è stato il primo gacha game. arriviamo a parlare di quelli che sono i gacha game di oggi, quelli che, come dire, stanno affliggendo, ma non è vero, no? Non è vero, perché comunque in realtà è ancora una cosa molto molto di nicchia sotto un certo punto di vista, perché non è proprio, come dire, se uno dicesse i Battle Royale adesso un po' stanno un po', come dire, ho già dimenticato il termine che ho appena usato. Affliggendo forse un pochino di più. Gacha game sono ancora di nicchia, ma allo stesso tempo sono anche un po' più subtili, più pericolosi, sì. Non ci fa caso. Sì, beh, perché poi la maggior parte sono asiatici o giapponesi, nello specifico. La maggior parte sono asiatici e giapponesi, vanno molto nel mercato orientale, e soprattutto la maggior parte sono per cellulari, che comunque, esatto, sì, soprattutto in Occidente, è uno di quei, come dire, mercati un po' molto più di nicchia, come dicevo prima. Mm-hmm. Quindi, Jacopo, non so, tu avevi qualcosa da introdurre, se no io vorrei sentire dai nostri ospiti una loro descrizione della loro esperienza con il videogioco che abbiamo sopra citato. Però, Jacopo, prima tu volevi aggiungere qualcosa? No. Allora, lascerei a loro la parola, perché voi siete venuti da me dicendo un giorno, appunto, si potrebbe fare una puntata sui gacha game per parlare proprio di questo famoso Genshin Impact, che in realtà è uno di quei pochi, anche qua non ho dati alla mano, però è uno di quei giochi orientali che ha spopolato di più in Occidente, soprattutto in questo periodo, e ormai è divampato quasi alla mo' di Fortnite all'inizio, nel senso, sì, che abbastanza. Sì, io ancora adesso non mi spiego come sia possibile, perché... Ok, volete raccontarci una giornata tipo di un Genshin Impactore, o... Era bruttissimo. Okay. Allora, la giornata media è che, direi, loghi, fai le tue 4 giornaliere che ti danno le tue misere primo gems con cui cercherai poi di pescare la tua waifu o il tuo usbando. E Invece pescherai quello che non ti serve. Un'arma 3 stelle o 4 stelle di qualcosa che non usi. E poi sì, adesso non so. Io non so neanche se adesso ci sia una parte nuova di storia o... Beh sì, allora, c'è stato da poco un aggiornamento. Andiamo con calma. Un attimo. Ho il sovraccarico sensoriale, allora... Facciamo. Dobbiamo capire le parole che ho detto. Assunto, che cos'è Genshin Impact, proprio come gioco, come storia, come tutto così? No, ancora prima, cioè è la prima volta che sento la parola usbando nella mia vita, che ha perfettamente senso. Waifu però lo conosci, no? Waifu certo che lo conosco, come no? Però... Usbando è la versione maschile della waifu. A controparte. È bellissimo. E se sbaglio dovrebbero essere entrambe, come dire, la parola waifu e husband pronunciate male in giapponese. Pronunciate alla giapponese. Usbando, ok. È già hashtag femminismo, quindi perfetto. ok, Marco, continua. Che cos'è Genshin Impact? Che cos'è Genshin Impact? Partiamo proprio dal principio. Dacci un sunto di che cos'è Genshin Impact, perché io mi ricordo che l'ho acceso una volta, è stato talmente giapponese che poi l'ho chiuso, o comunque e talmente orientale, qual è la perché cosa non è giapponese alla fine. Non è giapponese. Esatto. Allora, è fortemente ispirato agli RPG, diciamo, medi giapponesi, quindi comunque a tutte quelle robe... Sì, classici RPG giapponesi, insomma. E, però, appunto, tecnicamente non è giapponese, perché la MiHoYo è una ditta cinese. Esattamente. Volevi dire tu, scusa? Cioè, loro hanno detto, comunque, se non ricordo male, proprio la MiHoYo ha confermato che si è ispirata molto a altri videogiochi di grande successo, che hanno avuto molto successo, grandi nomi, tipo... Zelda. Tipo Zelda, appunto... E tutti l'hanno giusto, capito benissimo. Usbando, giusto. Sì. tutti hanno comunque capito, guardato fin da subito e l'hanno detto fin da subito: MiHoYo, tu mi stai mentendo, no? Io sto giocando a Zelda. Questo gioco non è innovativo, no? E poi alla fine hanno detto sì, no, ci siamo ispirati a quel gioco per pararsi il culo probabilmente, perché... Sì, no, perché comunque, come dire, è una cosa abbastanza evidente, nel senso, sì, il gameplay è... Il gameplay della parte, come dire, RPG di storia e così, è praticamente identico a Breath of the Wild, quello sicuramente. E diciamo come stile, come storia, è appunto invece la classica ispirazione, forse un po' alla Tales of... Mm-hmm. Certo. Per chi si fosse confuso, perché non ha finito la frase, Tales of è una serie di videogiochi, ci sono tipo Tales of Vesperia, Tales of Arise, quindi la gente lo chiama Tales of perché non perché vuole dare, non per creare suspense, esatto, non per creare suspense, esatto. Ma per indicare la serie, esatto, è la saga generica, una saga JRPG molto molto giapponese, molto esatto. E quindi c'è, cioè, la storia è questa specie di ensemble cast, cioè ci sono tanti personaggi, sì. C'è un nemico potente, c'è magari una fazione, sì, nemica addirittura. Sì, c'è la classica storia. Allora, all'inizio è, tu devi scegliere il personaggio principale, se vuoi giocare il personaggio maschile o quello femminile, e l'altro, che è il tuo gemello, sarà quello che tu perderai nello spazio-tempo e dovrai ritrovare. Ok. Una settimana normale, no? Esatto. In un qualunque RPG giapponese. E giusto per dare un'idea, perché ho la pagina Wikipedia qui aperta davanti a me, piccola frase che mi è capitata sotto gli occhi: dopo 2 settimane le vendite hanno superato i 100 milioni di dollari USA, oh, e dopo un mese le entrate derivanti solo dalle versioni mobile del gioco sono state di 287 milioni, quindi sì, sono... per darvi un'idea, cioè... è abbastanza spopolato. Sì, esatto. Io è uscito da un anno, più di un anno ormai, perché sì, è uscito nel settembre dell'anno scorso, fine settembre. Io ad oggi, che è passato più di un anno, mi stupisco di come io non abbia speso nulla. Esatto. Come io non abbia usato noi siamo soldi. State bravissime, perché non abbiamo mai usato soldi veri. E la stiamo dicendo, c'è anche la cultura del braccino corto un po'. Sì, quello sicuramente. Può dire fino a... No, perché poi l'idea di usare dei soldi veri solo per vedere un tipello in game che si muove mi fa un po' perdere la testa, non ce la faccio. Quando la pornografia è gratuita, perché arrivare a quella? Esatto, esatto, perché dovrei spendere soldi reali per una cosa animata neanche troppo bene. Esatto. Ma parliamo appunto di queste waifu e di questi usbandi. Esatto, la cosa più importante. Sono, come dire, il punto focale di ogni gacha il games. Il punto focale, esattamente. Ora, dacci, a che cosa servono queste waifu e questi usbandi nel gioco, giusto per avere un'idea? Allora, devo dire che in Genshin Impact sono effettivamente abbastanza utili, nel senso che dopo sono i personaggi che tu puoi mettere nel tuo team e con cui puoi combattere i boss, i nemici e queste cose qua. Quindi, oltre a essere belli, sono anche abbastanza utili. E lì che ti fregano. Esatto, lì che ti fregano. È tremendo, è tremendo. E niente, sì, principalmente... Sì, okay, adesso... Quindi, in pratica, se uno degli obiettivi di gioco è crearsi un team, un po' come una squadra di Pokémon quasi. Esatto, sì, assolutamente. Solo per dire gacha e mol. Esatto. Era quella la frase. Scusate. Ma in realtà, giusto di nuovo, piccola parentesi, le sfere poké, le Pokéball, nascono proprio ispirate al... Forse l'avevo già detto anche in una delle puntate relative... ispirate appunto alle sfere dei gachapon che uscivano dalle macchinette, quindi come dire, non è un riferimento a vuoto quello che ho fatto, non è solo per continuare a parlare sempre di Pokémon, che come faccio di solito. Esatto, infatti scusami, non volevo triggerarti, no. scusami. E quindi tu dici, e come faccio a ottenere questi, come faccio a catturare nuovi usbandi? Appunto con la meccanica del gacha. Spiegaci, esatto, un attimo, Laura, come funziona questo, il procedimento dello sbustare, del generare. Delle... Non sono neanche sicuro nemmeno io, perché in realtà io non l'ho proprio mai fatto. Quindi spiegalo anche a me. Allora, praticamente tu intanto per pescare devi avere le primogems, che sono il tipo di token che ci sono in Genshin Impact. No, non è propriamente il token. No, hai ragione, scusa, i fates. I fates sono il tipo di token che c'è in Genshin Impact, che in questo caso sono i Fates, e poi in tutti gli altri hanno degli altri nomi, ma di base sono tutti la stessa cosa. E con questo puoi pescare, che in realtà in Genshin Impact è più tipo un evocare, diciamo, un richiamare, una cosa simile. Effettivamente in Fire Emblem era più un invocare. Questo è proprio un... come in Animal Crossing, guardare le stelle cadenti, nel senso letterale del termine. Come, scusa? Nel senso letterale del termine, perché a parte che appunto in Animal Crossing o senti il suono delle stelle, della scia della stella cadente, oppure le vedi di sfuggita, oppure non le vedi proprio. E anche qui in Genshin Impact, letteralmente, c'è l'animazione, quando premi per fare la pescata, sì, diciamo, e compaiono queste stelle cadenti. Perché, sì, perché il tasto tecnicamente si chiama Wish. Esatto, quindi, perché esprimi un desiderio. Esatto. Il tuo desiderio sbando. Wow, è stupido Gallifrey, scusate. Salutiamo Gianfe. Piccola reference esterna. Okay. Quindi tu esprimi un desiderio, sperando, sì, di ottenere lo sbando che vuoi, ma la maggior, esatto, parte delle volte non esce quello che, no, diciamo, appunto hai desiderato. Sì, allora, è con un... È un... Posso dire giusto? Scusa, sì, vai, scusami. È un po' come un turn al lotto, no? Tu cerchi, esatto, come dire, fai queste estrazioni e cerchi di pescare tra i vari numeri, tra i vari personaggi disponibili, quello che cerchi tu. E qua ho bisogno di ancora un attimo del tuo aiuto, Laura, perché è lì che mi sfugge un attimo una cosa, perché c'è un motivo se abbiamo chiamata questa puntata Five Stars. Mm-hmm. Ovvero, se ho capito bene, c'è anche una meccanica di stelle che vanno a rappresentare, diciamo, la qualità, perché ci sono, sì, gli usbando migliori e gli usbando peggiori. Peggiori, certamente. Giustamente. E... quindi spiegaci anche questa cosa delle stelle, se puoi, un secondo. Allora, in Genshin Impact nello specifico ci sono, diciamo, le cose più scrause, che sono solo le armi, che sono 3 stelle. E quando peschi un'arma a 3 stelle, cioè, è come... hai buttato via dei soldi, in pratica. Mm. Ah, quindi non ci sono solo usbandi, no, waifu, ma anche armi. Perché Genshin Impact fa i banner misti, cosa che non fanno tutti i gacha games, ma siccome Genshin Impact è un po' stronzetto, mette tutto insieme. Cioè non puoi scegliere se pescare solo i personaggi. I banner sono i, diciamo, l'insieme. È come se scegliessi, tipo, quando hai davanti tanti gashapon, scegli da quale macchinetta nello specifico pescare. Perché sai che in una magari c'è... tipo il set di carte, nel senso prendo un'espansione di Magic piuttosto che un'altra. Esatto, sì, scegli tipo un set da cui pescare, allora sai che in quel set lì, non so, ci sono Tizio e Caio e nell'altro set qualcun altro, insomma. E poi non è vero nemmeno questo, perché... Esatto, diciamo, sì, questi funzionano male. L'impact ti illude, cioè nel senso tu hai dei problemi a fidarti delle persone del futuro per colpa di Genshin Impact, perché sì, hai questo, appunto, questo banner dove ti fa vedere le immagini del tuo usbando a 5 stelle, sei lì che lo brami, lo desideri. Tu accarezzi lo schermo. Tu accarezzi lo schermo e lo guardi, ci sarai mio, no? E... lo lecchi anche un po', ma poi ti pizzica. Esatto, esatto, esatto, esatto. Poi ti contieni, ti viene un po' di... ti capisci che stai facendo una cazzata e ritrai, no? Peschi, fai la pescata. Puoi fare la pescata singola, quindi una stella cadente, un desiderio soltanto... mm-hmm. Oppure, se siamo molto ingordi, la pescata da 10. 10 desideri tutti insieme. In cui dovresti avere delle percentuali migliori. Esatto. Con la pescata da 10 hai almeno un 4 stelle assicurato. Però tu non sai se è un personaggio o se è un'arma. Esatto. C'è chi ha molta fortuna, pesca anche un 5 stelle, più di un 5 stelle... tanti 4 stelle, tante cose insieme. Io ovviamente non mai successo a noi. Non sono presenti qui queste persone. Esatto. Non stiamo parlando di loro perché sono persone odiose, perché non se lo meritano. Non si meritano di stare qui. Ma hai la possibilità... No, prego, sì? Prego, finisci, mi dice. Hai la possibilità di pescare il tuo usbando, non lo peschi. Peschi un 5 stelle, non è il tuo usbando. È un altro personaggio che sta in un banner che c'è tutto l'anno. Il tuo sbando è un banner che dura a tempo limitato 3 settimane. E lì succede la tragedia. E quindi tu ti ritrovi lì con questa tizia che non volevi a 5 stelle. Non sto assolutamente parlando del mio gameplay, non sto assolutamente parlando di questo. No, non importa. Sono io. No, esatto. Io mi ritrovo ad oggi con qualche personaggio 5 stelle. Sì, mi è capitato di pescarne qualcuno perché, insomma, è più di un anno che ci gioco. Al gioco gli fai pena. Sì, sì, cioè nel senso, dopo, a forza di provare, come appunto dicevamo... Dice dire, sempre Laura una battuta. Sì? Alcuni giochi implementano anche, come dire, un massimo di pescate prima di averne un teso, un minimo di personaggi 5 stelle ti li fa pescare, perché sennò sa poi a un certo punto ti rompi i coglioni e te ne vai, quindi sicuramente. Sì, c'è comunque, cioè, a forza di provare si alza la probabilità che ti possa pescare qualcosa a 5 stelle, che sia un'arma a 5 stelle o un personaggio. E dopo che appunto hai pescato questo 5 stelle, diciamo che ti si riazzera la probabilità e dopo riparte da capo, diciamo così. C'è anche un po' questa meccanica, sì, che va un po'... Il problema è appunto che di solito ci sono tipo due banner, uno che è quello che c'è tutto l'anno, dove peschi, come dire, la gente standard che c'è sempre, poi c'è quello... Esatto, e poi c'è quel banner, quello che diciamo, quello dell'evento del momento, in cui che dura un tempo limitato, in cui ci sono i personaggi che magari sono quelli nuovi che hanno appena aggiunto nella storia. E quindi non puoi visto nemmeno visto scegliere tra quale dei due banner pescare, nel senso, quando peschi può essere dall'uno o dall'altro. No, puoi selezionare il banner, però nel banner dell'evento puoi comunque trovare i personaggi standard. Allora vuol dire che non importa selezionarlo, perché nel senso... Sì, però la differenza è che se invece peschi da quello con solo i personaggi standard, ovviamente non hai nessuna possibilità di trovare... Però, quindi, sì, perché cioè... uno dovrebbe mai farlo dai personaggi standard, non ha il minimo senso. No, vabbè, esatto. Cioè lo faccio perché ti regalano più roba per pescare da lì, allora tu ce l'hai e gliela butti lì. Certamente. Ma infatti una delle cose che non capivo delle stelle... È una cosa del tipo, ma quindi esistono proprio personaggi diversi con stelle diverse, inteso non è che un personaggio può esistere sia a 4 stelle no, che a 2 stelle. No, esatto. Ci okay, sono tutti i personaggi proprio... che ci sono nel gioco, sono uno diverso dall'altro. Ognuno di loro ha un elemento associato diverso, che può essere fuoco, acqua o qualsiasi tipo cosa. Tipo i Pokémon, appunto. Ognuno di loro ha un elemento... Però uno soltanto, perché altri Pokémon... Sì, Pokemon no, dopo se no si destabilizza. Esatto, Pokémon invece ne ha... Frase tipo i Pokémon verrà usata parecchio. Esatto, perché almeno è un... ci capiamo con sì, i Pokémon. Sì, è un termine di parametro che nel senso ci aiuta. E, ogni personaggio ovviamente ha una sua varia abilità, più di una magari, se appunto un 5 stelle, perché se il 5 stelle è, diciamo... più potente, sì, è più forte, il 5 stelle ha più abilità, fa cose più particolari, che cazzo ne so, cioè ognuno, è più figo, ognuno, in pratica ognuno di loro ha qualcosa di diverso, ognuno di loro ha un'arma specifica, sì, ne possono usare una soltanto, che possono no essere... non è che ne possono usare, che ce n'è una che è migliore rispetto alle altre. Ah no, nel senso, c'è cioè, che hanno un'arma specifica che sì, cioè che sì, che è specifica, è pensata per quel personaggio lì. Sì, sì. Okay. Ah, quindi tu dovresti cercare personaggio 5 stelle con l'arma associata 5 stelle. Esatto, cioè quindi tu dovresti avere due il di pescare, esatto, sì, il personaggio perché... 5 stelle e poi anche l'arma 5 stelle da dargli, perché sennò poi c'hai il personaggio 5 stelle con l'arma magari a 3 stelle che insomma, fa un po' ridere, fa ridere. Perché l'unica tra virgolette l'unica cosa intelligente che ha fatto la Mioyo è stata di appunto quando fanno uscire un personaggio mettono il banner dei personaggi e poi a fianco il banner sempre a tempo con l'arma, l'arma che sarebbe più adatta al personaggio che sta uscendo in quel momento. Certo. Quindi... Però sì, in pratica ci sono, a 3 stelle ci sono solo le armi, a 4 stelle ci sono delle armi dei personaggi e a 5 stelle idem delle armi dei personaggi. Ok. E quindi cosa succede se tipo peschi dei doppioni, se peschi... la stessa arma o lo stesso personaggio più volte? Allora, la stessa, se peschi due volte la stessa arma, la puoi usare per potenziare, cioè usi una per potenziare l'altra. Diciamo che le fondi insieme. Le fondi insieme, praticamente. E, invece, se peschi due volte lo stesso personaggio, funziona sempre, diciamo più o meno lo stesso concetto, però vai a riempire una costellazione di abilità che ha ogni personaggio. Ok, quindi non sono propriamente sprecati, però... No, infatti, però neanche, insomma, potrebbe andare meglio, ecco, diciamo così. Ok, con tutta questa immagine, poi ovviamente in questo momento non stiamo parlando del gameplay in sé, dei combattimenti, no, ragazzi, cioè... storia. Stiamo abbiamo già detto che è uguale a Zelda, quindi uno se lo deve immaginare a questo punto. Io sono perso completamente, cioè io ho bisogno del commercialista, nel senso che tutti questi giri... Però mi sembra di aver capito, mi sembra di aver colto che la meccanica del, appunto, cercare questi oggetti casuali, questi usbandi, queste armi casuali, è molto, come dire, come si dice in italiano, è qualcosa che ti rende assuefatto, cioè, è una droga, essenzialmente, il fatto di andare lì, provare a attivare, a dire ok, tentiamo la fortuna, cerchiamo, che è proprio il concetto del gacha, quindi il gameplay che c'è, esatto, quello che devi fare per arrivare a tentare la fortuna di nuovo è quasi rilevante, cioè nel senso sì, immagino che sia competente, ma immagino che ci sia un motivo se avete parlato così tanto, diciamo, dei dettagli della meccanica proprio di come trovare quello che vuoi, nel senso di come volete ottenere le cose che volete. Però cioè nel senso, immagino che poi, come hai detto voi, quindi se avete, che so, uno sbando particolare vi aiuta magari in una fight contro, in una battaglia contro un boss, immagino anche durante sezioni normali tra virgolette quello che avete è accessibile o no, o avete sempre lo stesso personaggio giocabile nel gioco normale, diciamo. Allora, il gioco all'inizio te ne regala 4, che sono, diciamo, cioè hai il protagonista più altri 3 personaggi che ti regala automaticamente il gioco, e quelli sono, diciamo, il team base che vanno a formare. Sì, questi 4 formano il team base. Poi tutti gli altri, cioè se tu ne vuoi degli altri, però devi solo pescare. E diciamo che andando avanti nella storia... Forse cercando di dire, Jacopo, forse se ho capito bene, era il tipo... Se anche tu non pescassi, se decidessi completamente non giocare alla parte gacha del gioco, diciamo, il resto del gioco ti sarebbe precluso completamente? O no, perché, allora, no. Questo lo so perché comunque mi è capitato di vedere dei video di persone che fanno questi esperimenti e mi divertono un sacco. appunto questo che arrivava e diceva io non pesco, no? E faceva vedere tipo i suoi token, la quantità dei suoi token dopo un anno di gameplay, e mi veniva solo male, no? No, non ti preclude nulla, cioè non hai blocchi o cose del genere, perché comunque alla fine il team di 4 ce l'hai, puoi comunque... Ma non era quello che intendevo comunque, allora, scusate. Ho capito male io, scusa. No, okay. No, intendevo, questo è un dettaglio importante, comunque interessante da scoprire, però intendevo... I personaggi che rolli, cioè che ti capitano, sì, non sono accessibili solo in alcune condizioni, cioè tu puoi usarli per giocare. Ah no, puoi usarli sì. No, dopo quando ce li hai li puoi usare per qualunque cosa in gameplay. Ok, non solo per i boss, cose così, avevo capito male. No, puoi usare anche solo per andare in esplorazione della mappa, per dire. No, questo, ok, avevo capito male. Cioè quando ce li hai li puoi cambiare il team come preferisci, li puoi usare in qualsiasi situazione. Ovviamente se fai tipo la storia principale avrai dei momenti in cui appunto dovrai usare il protagonista, ma sono le uniche eccezioni. Sì, perché te lo fa fare il gioco in automatico. Sì, perché hai la modalità, sei in modalità storia, diciamo, esatto, e fai la storia principale, quindi ti serve il protagonista. Per quindi forza. La storia è quasi comunque più appunto la classica, come dire, come si dice, diciamo... È quella spinta al collezionismo, no? È quel giocare sul desiderio di collezionare di un giocatore. È giusto per avere un'idea chiara, poi lascio la parola a Jacopo completamente. Per un'idea generale della dimensione di tutto quanto, perché il gioco, abbiamo detto, è uscito da circa un anno, un po' più di un anno. Sì. Sapete dirci circa quanti personaggi è possibile pescare? Nel senso, quanto è grande il roster di scelta? Allora, secondo me, allora, i personaggi... Ho visto approssimativamente, del tipo... Centinaia o migliaia o più decine? No, sono tipo 30. Sì, cioè penso tipo 30, ma non sono sicurissima. Ok, sulle una trentina circa. Beh dai, pensavo peggio, quello devo essere sincero, pensavo veramente peggio. E in media anche giocando... Forse potrei giocarci anch'io allora. no, non mi odio. No, più che altro so che potrebbe essere veramente una di quelle cose che se ci entro io... con le mie manie di collezionismo, poi dopo ci esco male. Forse non esci più proprio, non ti troviamo esatto. Più. Dicevo, e sempre per avere un'idea finale di tutto quanto, uno che ci gioca più o meno come voi, cioè senza spendere soldi aggiuntivi, facendo le daily e le weekly o qualunque tipo di missioni ci siano, quanti desideri riesce ad esprimere, non so, in un mese, in una settimana, non so quale sia. Allora, io quando ho avuto un banner con un character che mi interessava e mi sono vagamente impegnata, quindi ho fatto un po' di daily e così, ho fatto in tutto tipo una quarantina di pescate. Mm-hmm. E hai trovato il personaggio? No, ovviamente. Mi ha fatto il fatto che ho pescato un 5 stelle che però non era quello che volevo io, cioè non era quello del banner, era uno di quelli standard. Però invece, per esempio, io ho un amico che anche lui non usa mai i soldi veri, però è molto molto infoiato. Allora, quando c'era la waifu, ha fatto, mi sembra, tipo... Vabbè, ma lui ha risparmiato per... Sì, ha risparmiato, nel senso, ha iniziato a giocare prima, non ha pescato per un tot di banner, però per pescare la waifu ha fatto 250 pescate, mi sembra. Porco due! E l'ha trovata alla fine? L'ha trovata. Okay, alla 250esima, tipo? No, dopo un po' che peschi a una certa, ce l'hai garantito. E lui ha deciso... Okay. E lui ha detto che io voglio arrivare a quel limite lì, se no superarlo, se riesco a superarlo bene, però voglio arrivare a quel limite così so che se proprio mi va male ce l'ho assicurata. E così è stato, cioè e così ce l'ha fatta. Lui è il nostro king, perché lui fa tutti questi calcoli, poi lui è studiatissimo, io faccio le robe a caso, io faccio il team per dire in base a quanto sono carini i personaggi, no? Invece lui mi dice, ma guarda che questo poi non va bene, perché se lo buildi così, E poi se la prende con me, perché io sono quella che... Lei non... Cioè, lei è... Gioca così. Io gioco una volta ogni morte di papà. Io mi sono impegnata un po' di più, adesso sto giocando un po' di meno, perché anche io cerco di disintossicarmi, perché è veramente, è veramente tremendo certe volte sto gioco. Però, tipo... Storia di vita vissuta proprio, cioè sì, storie di droga. Sì, sì. Alcolisti anonimi, però, per Games. Quei gacha games in generale. Giusto? Però sì, quando giocavo sempre, ero presa bene, mi impegnavo comunque a farmare quello che potevi farmare, cioè per le spade, per gli artefatti da assegnare ai personaggi, perché ci sono tantissime cose che puoi fare dopo un anno di aggiornamenti sul gioco, esatto. Qua ci sono veramente tantissime cose che uno può fare, e nel senso, meno male che io sono partita proprio quasi al day one, o comunque i primi giorni, perché c'era pochissime cose che potevi fare, esatto, mi ricordo anch'io, e c'era meno confusione. Se uno dovesse iniziare a giocare adesso, io capisco che ti viene un po', ti sale un po' la claustrofobia, oppure sì, troppa roba tutti insieme. Ti esplode un po' il cervello, una certa, mi rendo conto. Succede che... con tutti, come dire, i giochi as a service, che poi si espandono. Sì. Ma c'è una componente sociale anche, quindi, nel senso che io questo tipo di gioco... dove c'è così tanta enfasi sull'estetica, su quello che hai come roster di personaggi, come waifu e usbando, che ora dirò per sempre, In realtà questa è la mia ossessione. Ecco, piccola parentesi. Se mi posso permettere, lo dici con troppa serietà. Devi lasciare, devi dire, lasciare andare un po' di più il senso del pudore quando è una mia... Questo è un mio fetish. Io ho il fetish per le parole inglese dette dai giapponesi, tipo waru e cose così. Comunque, vabbè, la domanda era questa, cioè, voi potete incontrare altre persone sempre o magari solo in alcuni posti? Cioè, c'è una componente dove io incontro un'altra persona e vedo, ah, cazzo, quella persona c'ha questo usbando? Va bene così, Marco. Lo puoi fare se abiliti la parte online. Ti arriva la richiesta di qualcuno che magari vuole entrare nel tuo mondo e se tu lo lasci entrare puoi vedere che carattere ha e magari potete fare, non so, dei boss insieme o delle sfide insieme, cose così. Perché forse Jacopo non ha intuito questa cosa, inteso... Non gli sarebbe stata la cosa più naturale. In realtà Genshin Impact è più single player che multiplayer, o sbaglio? Inteso, c'è un multiplayer, però è più del tipo... Sì. Collaborazione, cioè ti colleghi un po' la Dark Souls, nel senso viene un altro giocatore nel tuo mondo e fate esatto sì fare. sì così di solito, oppure tu vai nel mondo di qualcun altro e gli dai una mano a fare le robe lì, però poi nel senso le fai lì e basta. Tutta questa cosa di esteria così è per puro piacere personale, cosa pensavi fosse utile? È edonismo, ok, no, ho capito, assolutamente è no edonismo. È puro piacere personale. Questa cosa non mi era entrata come concetto, pensavo che fosse più libero come gioco, nel senso che cioè mi piace in realtà che sia single player, allora, perché se è una cosa solo, diciamo, consensuale per usare il termine, cioè che solamente quando entrambi sono coscienti del fatto che stanno collaborando, che figo. Io pensavo fosse appunto che il gioco in certi momenti ti forzava a incontrare altra gente e ti faceva vedere tipo, ah, guarda questo figo in questo posto. Assolutamente. Ovviamente hai magari tipo delle side quest, delle sfide all'interno della mappa, esatto. Perché letteralmente hai dei punti dove ci sono degli indovinelli, delle cose da fare. Tipo Zelda, appunto. E ti serve magari l'aiuto di qualcun altro, nel senso anche fisico, perché ci vogliono per forza magari due personaggi contemporaneamente o anche più di un ospite nel tuo mondo, esatto. Per fare determinate cose che ti sbloccano, appunto, esatto. Delle chest, però non è necessario, nel senso, esatto. Puoi anche non farle queste a livello cose, se vuoi. Se tu fai la storia principale o comunque le storie principali, esatto. Perché ce n'è più di una, ovviamente, purtroppo sì, sia mai che sia un gioco facile. Tu puoi tranquillamente non collegarti con nessuno, puoi benissimo fare tutto singolarmente, fare la sociale. Perfetto. E esatto. Tranquillo. Grande, sono infatti io. Infatti penso che questa sia una delle cose più interessanti, cioè che dove appunto cade la distinzione, per esempio, tra classiche loot box e cose un po' più gacha. Cioè che appunto la prima cosa è che non è solo una cosa... per la semplice estetica, non sono le loot box di Overwatch o di Halo, di qualsiasi altro gioco lì in cui è veramente solo estetica, sì. E quindi, come forse Iago partiva da lì dicendo, magari lo fai perché vuoi impressionare quelli che incontri online, in multiplayer, esatto, vedi, sì. Quello c'ha l'armatura figa, c'ha fiamme dietro. Come... Io ci penso di meno quando gioco un gioco single player, io penso di meno a come vado in giro vestito, nel senso che se ho una giacca color neon, un cappello da dinosauro e i piedi che sono le ciabatte a forma di piede di papera, non me ne frega un cazzo, cioè nel senso... Sì, ma infatti è proprio qui la distinzione, anche, esatto. Qui la distinzione, cioè che appunto non è una cosa estetica, perché effettivamente i personaggi hanno delle statistiche, hanno delle... come dire, sono come i Pokémon effettivamente più o meno efficaci in battaglia, più o meno buoni personaggi per completare le missioni, perché ce ne sono alcuni più forti di altri. Mm-hmm. E infatti forse è questo che magari non ha... Non so perché non ha così tanto preso piede in Occidente, ma molto più in Oriente, cioè che appunto questa idea di dover sempre comprare, tra virgolette, tentare la fortuna per ottenere qualcosa di nuovo in un... inteso proprio di gameplay, perché non è solo cosa estetica. E come dicevo prima, il mondo dei giochi cellulari che spopola, come abbiamo parlato qualche puntata fa, appunto, delle varie differenze tra i vari paesi riguardo ai videogiochi, spopola in Oriente, è pieno, è pienissimo di cose del genere, che un po' ultimamente stanno arrivando soprattutto anche in America e forse ultimamente anche in Europa. E se uno ci pensa, e questa la devo dire perché mi piace sparare stronzate, se uno ci pensa, il gioco più gachapon, tecnicamente, del momento, che c'era ben prima di Genshin Impact, è FIFA, se uno ci dà, ci fa caso. Questa è una... Questa, Marco, è una provocazione, ma io l'accetto perché FIFA è la feccia dell'umanità, cioè tipo è veramente... non lo so, non posso... Vabbè. Hashtag Ronaldo Usbando. Cristo. Tra l'altro vai, scusa. No, scusa, di pure. No, volevo solo far notare, hanno... come si dice, lasciato, hanno mollato ogni pretesa di essere un gioco vero e quelli della Konami hanno provato a fare un free to play ed è una merda, è tipo uno dei 10 giochi peggiori mai fatti nella storia dei videogiochi. Allora, quello che doveva essere il competitor di FIFA, certo. Esatto, proprio quello. Sì. Incredibile. Come no? Scusa, dicevi... No, io volevo solo dire che adesso i gacha games, quindi queste robe tipo Genshin Impact e così, quelli proprio i veri gacha games, adesso stanno diventando più popolari, un po' diciamo, in tutto il mondo, secondo me per il semplice fatto che stanno diventando molto più popolari anche gli anime. Sì, è vero. Gli anime, pensare ai gacha games è facile, perché alla fine quasi tutti hanno la stessa estetica dei personaggi di anime o manga e cose così, e quindi attizza molto. È vero. Va anche dentro una cosa. No, dai, aspetta, non posso sempre rubare. Vai, Jacopo, poi la... No, sono io che sto rubando adesso. Beh, comunque volevo solo dire che è anche vero che anche proprio il tipo di genere di gioco spopola molto. Cioè, un gioco che ha una barriera d'ingresso bassissima, sia di abilità di gioco che di prezzo, perché è gratis. E quindi uno scarica e poi si mette lì e spippola e si rilassa e non ha interesse magari a... fare qualcosa di competitivo o qualcosa di serio, insomma. Cioè, come magari per una persona del genere poteva essere un passatempo prima Tetris o la settimana enigmistica, magari ora è Genshin Impact. Non lo so. Sì, beh, ci sta. Scusa, Marco, dicevi? Una cosa che ho notato da tutta la descrizione fatta da Laura e Giulia è che io in realtà lo pensavo molto peggio, inteso che Genshin Impact, come lo descrivete voi, è uno di quei gachapon che mi sono un po' informato è una parola grossa, però ho guardato un po' in giro, in altri, guardando video su YouTube di gente che appunto parlava di gachapon, faceva vedere varie cose, faceva le classici, il classici opening pack e cose del genere. E da come lo descrivete voi, Genshin Impact mi sembra uno dei più gentili sotto questo punto di vista, inteso che è forse uno dei motivi per cui è anche spopolato, è perché non è estremo come molti altri che in realtà penso di aver visto in giro, che sinceramente, soprattutto per quanto riguarda i giochi mobile, oltre a non offrire un gameplay complesso come può essere quello di Genshin Impact, che lì ovviamente va di gioco in gioco, dipende lì, però soprattutto Genshin Impact non mi sembra nemmeno uno di quelli che non so in che altro termine mettere se non per dire ti distrugge l'anima, inteso che ci sono giochi che se non paghi e se vuoi guadagnare solo giocando ti rubano l'unica altra risorsa veramente importante, che è il tempo, e te ne rubano tanto, inteso che ci sono giochi che più che parsimoniosi con i reward, proprio te li danno col contagocce, e Genshin Impact, come raccontate voi, non sembra essere uno di quelli, quindi... Diciamo che a livello di reward fa abbastanza schifino, secondo me. Cioè, uno se vuole comunque farmare per alzare di livello il proprio personaggio deve fare abbastanza fatica, secondo me. Sono bestemmie lì, eh? Perché... allora, un'altra... introduciamo una nuova cosa che si può fare in Genshin Impact. In Genshin Impact tu puoi aumentare di livello, dovresti aumentare di livello il tuo personaggio se vuoi comunque andare avanti a giocare, ovviamente. Stessa cosa vale per l'arma, però hai bisogno di risorse. Queste risorse le puoi acquisire combattendo contro dei boss, sconfiggendoli, oppure entrando in questi domain, questi templi, ognuno, tipo Zelda. Tipo Zelda, appunto, di nuovo. E da lì tu appunto scegli il livello, la difficoltà della sfida che vuoi fare in questo tempio e hai dei reward possibili, non sono certi, quindi tu non sai, cioè tu esatto. Stai facendo questo boss, questo tempio, tutto quello che è, tu non sai qual è il tuo reward, quindi devi farlo 5-6 volte per... e poi ancora non è quello che ti serve, magari. Magari forse trovare qualcosa che si avvicina. E poi tipo simile. Alcuni domain magari ci sono solo tipo certi giorni della settimana, cioè certi domain li puoi fare solo, non so, magari esatto. Lunedì, martedì e venerdì, per dire. Esatto, no, è più che altro è un fatto di i reward che hai, non li trovi, cioè non sono fissi i reward, che magari ti servono risorse per aumentare di livello l'arma, oggi non puoi farlo perché quello che ti serve per fare l'arma che vuoi fare oggi non c'è, c'è giovedì. Esatto. Quindi, e oltretutto un'altra cosa che rompe un po' le scatole a me in generale è il fatto di cosa utilizzi per sbloccare, perché ovviamente tu batti il boss, ma non è detto che poi, cioè tu non è che non puoi avere i reward. Cosa? Tu batti il boss, no, scusa. Fai anche fatica, batti il boss, esce un fiore, no? Il fiorellino. Oh. Carino, wow. È tutta una farsa, no? Esce questo fiore, spawna questo fiore dal pavimento come le margherite in Mulan, esce e tu per sbloccarlo, questo fiore si apre e ti dai reward, però tu lo devi sbloccare. Con cosa lo sblocchi? Questi pezzi di resina, si chiamano così nel gioco. Non so se si vede questi pezzi di merda. Esatto, sì, potrebbero tranquillamente essere pezzi di merda. Però nel senso, dopo un po' li consumi. Giornalieralmente a livello giornalmente non so più parlare. Colpa di Genshin, esatto. Succede spesso a livello giornaliero. Tu hai tipo adesso ad oggi hai 160 pezzi di resina, te ne servono circa 40 per sbloccare un fiore di un boss. Okay. Se ne servono 30 per sbloccarne di un altro tipo, e se non ricordo male 60 per sbloccare appunto i premi che trovi nei templi. E non sai, che è vero, 60. E non sai cosa puoi trovare, quindi devi fare tanti templi, e nel senso dopo un po' finiscono. E cosa succede? O li paghi coi soldi veri, oppure appunto sfrutti le risorse che hai. Io non ne ho, perché non ne ho. Faccio tipo 3-4 boss o 3-4 templi, faccio le mie giornaliere e poi chiudo il gioco. E poi è finita lì, perché poi vado avanti. Amici come prima, ok. Esatto. Hai fuori un altro argomento molto interessante per quelli fuori di testa, e cioè che uno dei trucchi più utilizzati da tutti i gacha game, o quelli che comunque vogliono cercare di... non so come definirla. Nascondere un po' questa meccanica, o comunque cercare di... non essere proprio così palesi del tipo paga ogni stella cadente 2 euro, cose del genere, è appunto quello di... far passare il tutto attraverso la conversione di... risorse in risorse in risorse in risorse. Sì. Esatto, sì, sì, era... Genshin lo fa tantissimo. Era uscita una controversia anche qualche tempo fa riguardante Destiny 2, se non ricordo male, che tipo per fare, credo, tipo l'equivalente delle Transmog, cioè proprio una cosa di estetica. Sì, Transmogrify, era per cambiare l'aspetto di armi. Per cambiare l'aspetto di armi e armature, tipo, anche lì aveva nascosto tutto dietro, aveva cercato di nascondere tutto dietro dei vari... delle varie compravendite, degli scambi di valuta interni al gioco, solo che poi i giocatori, perché ci sono quelli ancora più pazzi di noi, quasi, che poi si mettono a fare la matematica e si rendono conto del tipo che per fare una quelli che fanno i fogli Excel sono matti, Marco, cioè, veramente dei puri pezzi di merda, stronzi e rincoglioniti, davvero? Soprattutto quelli che li fanno a insaputa di loro amici che hanno un podcast con loro e poi glielo portano così a caso di una puntata senza dire nulla, dei veri figli di puttana, oserei dire. Davvero, Marco? Scusate, devo un attimo insultare. Loro in hanno capito benissimo di cosa stiamo parlando perché stanno ascoltando, loro ascoltano tutte le puntate del podcast. Sì, sì, sì, sì. Grandi fan sempre. Diceva appunto, hanno fatto la matematica ed era uscito fuori... la matematica, hanno fatto i calcoli, ed era uscito fuori che per fare una transmog serviva una, tipo... 2 mesi di gioco intero tutti i giorni, insomma dei valori assurdi che avevamo provato tutti a nascondere dietro queste cambi di valuta e che non c'erano riusciti nel caso di Destiny 2, ma che in molti altri giochi, per esempio vedi Genshin Impact, allora magari ci riescono più di quanto non pensassi. Questo di sicuro succedeva assolutamente anche negli altri giochi che ho guardato un po' adesso, ovviamente poi ho già completamente rimosso tutti i nomi possibili perché sono sempre molto... Cioè, è strano perché sono estremamente generici e però generici solo in quella branca lì, quindi sono Dragon Warrior of Destiny, Fate, cose del genere. E uno dopo un po' fa confusione. Ma c'è il famoso Raid Shadow Legends che sponsorizza questa puntata dell'episodio del Fumare Elettrico. Giustamente, ci giocateci attraverso NordVPN, mi raccomando. Esatto. E... tra l'altro c'è un'altra questione che hanno criticato molto di sempre di Halo Infinite, perché è un problema dilagante in questi giochi dove ci sono tante microtransazioni, ovvero la FOMO. La FOMO è la fear, esatto, la fear of missing out, che vuol dire la paura di perdere l'autobus, no, mettiamo la paura di perdere il momento, diciamo, in cui un gioco è nella zeitgeist, diciamo, è nella cultura popolare, o magari il momento in cui il tuo usbando è disponibile, c'è cioè il banner, o ci sono tanti giochi, ci sono tanti giochi dove ci sono eventi a tempo, dove ci sono cose che puoi comprare nello store solo per un po' di tempo, ci sono cose che hanno una scadenza in generale, hanno una scadenza e quindi tu ti devi sbrigare, quindi hai più voglia di giocare perché altrimenti non hai il contentino. Questa cosa è un problema dilagante, è un problema che ha anche Halo Infinite e di cui stanno lamentando, ed è qualcosa che magari se sei abituato a giocare appunto in giochi tipo Genshin Impact, così magari ti ci fai la corazza, nel senso che dici ok, se proprio c'è quello che mi interessa, che lo voglio, mi ci sforzo, altrimenti cioè appunto lo ignori. Però è in parte quello che viene sfruttato dalle missioni, cioè nel senso il fatto di entrare, fare le missioni giornaliere o settimanali, una piccola parte anche questo, insomma. La cosa però che mi fa, appunto, che non pensavo di Genshin Impact è che appunto fosse un gioco single player. Quindi cioè, sì. queste missioni giornaliere, settimanali, così, cosa sono? Cioè cosa è tipo... Allora, ci sono principalmente le giornaliere, che sono 4, e sono 4 missioni che tu che devi fare, penso, per forza. Ma non sei obbligato a farle da solo, ma sono facilissime da fare da solo. E sono, diciamo, magari, non so, battere un piccolo gruppo di mostri, oppure portare una cosa da un character a un altro in un tot di tempo. Cioè, tutte cose molto easy peasy. Quindi molto, che è molto light. Sì. E tu fai queste quattro. Puoi fare un esempio, giusto per avere un'idea, tipo uccidi X mostri di un certo tipo. Sì, allora di solito per esempio ce n'è... Uccidi 10 lupi. No, ci sono tipo uccidi 8 slime, cose così. Ma nel senso che sono tutti nello stesso punto, cioè tu vai in quel punto lì, ti spawnano 8 slime. Ah, addirittura, proprio... uccidi. Sì, sì, proprio così, easy peasy. Cioè ti segna sulla mappa dove devi andare, vai lì, ti spawnano 8 slime, uccidi questi 8 slime. Ah, ok. Quindi sono proprio delle quest, tipo, cioè come fosse... Ah, tipo mini quest. Tipo, quasi, mi ricordano tanto le, come si chiamavano, le Radiant Quest di Skyrim, quasi, no? Che tipo io, quel... di Fallout, sì, sì. Skyrim, perché Fallout? Ah, per Fallout 4 ne... Vabbè, anche, ah, scusami, anche in Fallout 4, scusami. Sì, sì, sì, cioè nel senso quello che a un certo punto, ogni tanto ti diceva, ah, sì, c'è un campo di banditi. Va? Esatto. Sì, sì, sì. Ok. I Minutemen hanno bisogno di te. Cioè no. Una... Oppure c'è magari la, non so, la cuoca del ristorante che ti dice consegna questo al villaggio vicino, ma devi farlo entro 5 minuti perché sennò il piatto si raffredda e dopo il cliente non è contento. Cose così. Mi ricorda un altro gioco di consegne famoso, scusa. Esatto, sì. C'è una serie di missioni che questa proprio, secondo me è una chicca perché... Secondo me io mi faccio le pare, però. Dove tu accompagni una bambina che si chiama... Ah, cazzo, è vero, la bambina! Questa bambina si chiama Ella Musk. Ella Musk? Ella Musk. Maschella? No. No, la figlia di Elon Musk. Sì. Sembra letteralmente tipo un omaggio a Elon Musk. Mi fa molto ridere, sì, questa cosa. Tu accompagni, oh no, questa bambina... perché lei solitamente la trovi che studia nella biblioteca della città, studia lì la lingua dei mostri, no? Quelli che tu di solito ammazzi. Lei studia la lingua. Lei studia la loro lingua e letteralmente tu la accompagni e lei poi, cioè, ti spiega delle cose, tu ti metti a... come posso dire, a parlare, fare poesie davanti a loro e vedere la reazione che hanno questi mostri. Quindi c'è tipo la good end, come, ritornando alla vecchia puntata, c'è la good end e la bad end, ti capita che tipo ti va bene e loro iniziano a ballare, sono contenti, no? Oppure c'è la bad end che finisce male e loro si incazzano e tu li devi uccidere. Cavolo, quindi i visual novel c'entrano sempre anche di calcio. A proposito, infatti, hanno inserito anche una serie di side quest che sono praticamente dei dating sim. Cioè, tu devi andare a un appuntamento con uno dei personaggi. Ci sono i dating sim. Sì, sì, ovviamente. No, è diventato il mio sport preferito fare queste cose. Degli appuntamenti. Sì, perché è una, secondo me è una cosa particolare, diciamo, perché quando esce un nuovo personaggio... Se 5 stelle, cioè questa differenza tra virgolette, questo razzismo secondo me, perché è una cosa brutta secondo questa me. Discriminazione. Perché, sì, c'è discriminazione da questo punto di vista, perché i personaggi 5 stelle, quando escono appunto nel nuovo banner, personaggio nuovo, tutto figo, tutti lo vogliono, queste cose qua, insieme esce, diciamo, la sua storia. Un pezzo, puoi fare un pezzo di storia con questo personaggio, quindi hai anche... forse la possibilità di utilizzarlo in game se non lo possiedi per un tempo limitato, sì, provare, durante appunto questa quest del personaggio singola. E, invece, e questo succede per i 5 stelle. Per i 4 stelle, appunto... Come spacciatore, cioè la prima dose è gratis e poi... Esatto, sì, esatto, sì, esatto. Sì. E c'è questa modalità, appunto. E invece per i 4 stelle hanno deciso di fare appunto questi dating sim con molteplici finali. Troppi finali. E tipo, sì, per alcuni, per la waifu più waifu di tutti, sono arrivati a fare 12 finali. Ma che io Barbara? No, ma che Barbara? Barbara ne ha 6. Oh no, Noel ne ha, no, tipo 12. Adesso faccio causa alla mioia. Perché ovviamente... Scusate un attimo, hai detto Barbara? Sì, Barbara è la mia waifu. È ma uno... ci sono Nomi non... cioè ci sono nomi così occidentali? Sì, perché, sì, per perché questo ci perché sono... Oddio, ci sono varie regioni. È una cosa interessante a livello di trama del gioco, è che ogni regione, diciamo, è ispirata a uno stato, un paese realmente esistente. Quindi tipo, tu quando parti, inizi il gioco... ti trovi in questo posto che è ambientato in un luogo simile alla Germania, diciamo. Ok. Poi, continuando la trama, il primo stato che visiti, che si chiama Mondstadt, è ispirato alla Germania. E quindi ci sono i personaggi che sono di quella zona. Sì, insomma, hanno tipo tutti vestiti da, come dire, Europa medievale, tutto nello stesso, tutti, diciamo... Stai dicendo che Adolf è uno degli Usbandi? O... No. No, non siamo a questi livelli, no. Però sì, mi sa che lo devi vedere, Jacopo, anche un po'... È presente come quando gli italiani chiamano i figli Jonathan o... Sì. Con la G, però, con la G-E. G-E Jonathan. Perché, senza ovviamente gli unici nomi che sono, come dire, giusti e fatti bene sono i nomi dei personaggi che vengono dallo stato ispirato alla Cina, perché la mia è cinese, quindi gli ha dato dei nomi sensati in cinese. Vabbè, ma quello nel senso, loro ci hanno provato e ci hanno messo l'impegno alla fine. Quindi... Sì, sì, perché già in quello giapponese scarseggiamo già coi nomi, quindi... Sì, no, non sono male, sono creativi, diciamo. Sì, però. La cosa che mi piace, tra virgolette, di questo gioco, diciamo un lato positivo, è che il character design, secondo me, appunto, essendo... di origine cinese, cioè nel senso è fatto dai cinesi e non dai giapponesi, ha quello spice up di più, secondo me. Non dico che sia, però è qualcosa che secondo me è leggermente diverso, perché tipo altri prodotti della MiHoYo, c'è questo Honkai Impact che a meccia dentro a personaggi comunque. Sì, cerca quello è più palese che cerca di imitare il Giappone. È più futuristico, i personaggi hanno uno stile un po' tech, cioè, non l'ho mai giocato, però so che è un po' più ha tematiche diverse. Invece questo è più leggiadro quasi, non so come spiegare, non lo so. Comunque i design sono un po' frufru, secondo me, sì. Anche da questo, detto bello, molto brutalmente, sono un po' frufru, perché... cioè, tipo, quando ti ritrovi ad andare a passeggiare in queste regioni, appunto parti da quella che sembra un po' tedesca, medievale, continui in quella cinese, che è molto bella, perché poi cambiano anche le musiche, appunto, sono a tema e queste cose qua. Anche gli NPC cambiano di estetica, hanno vestiti diversi, abiti diversi, queste cose qua. E arrivi anche a quello giapponese, che è l'ultima uscita, e non sono tutti propriamente in kimono. Secondo me è una cosa diversa, cioè è anche un lato positivo, perché ti danno... È più vario, esatto. Comunque ci sono personaggi, anche gli NPC, non sono tutti standard uguali identici. Ci sono bambini, personaggi alti, personaggi bassi, personaggi magri, grassi, c'è tutto un mix. E sono delle ragazze grasse. Io sono rimasta scioccata la prima volta. Ed è secondo me un mix interessante, però anche lì, nel senso, guardiamo il character design, ma non guardiamo le art ufficiali e poi guardiamo il 3D. Esatto, poi guardiamo il manga, è ancora più un casino. Perché non possiamo guardare prima le art ufficiali e guardare poi il videogioco, perché sennò ci viene male, perché secondo me hanno fatto un brutto lavoro. Io però, se posso permettermi, non sono totalmente d'accordo. Dici. Sul character design. Dici. Nel senso, all'inizio si vedeva che era una cosa più studiata, più elaborata, ed effettivamente era, come dici tu, un po' più frufru, nel senso si vedeva che era più originale così. Adesso, da quando hanno avuto questo boom di successo, secondo me gli è venuto un po', come dire, detto volgarmente, il pepe al culo di fare uscire la roba. E gli ultimi design per me sono molto più blandi. Sì, sono molto più bruttini, okay, cioè sono anche molto più uguali a quelli che hanno già fatto, cioè c'è poca originalità, secondo me. Quindi come i Pokémon, stai dicendo. Sì, beh, tipo... Perdonatemi, non voglio accendere altri fuochi. È onesto, è giusto che ogni tanto venga fuori. Un po' più. Però Però sì, secondo me è una visione un po', cioè nel senso, può anche avere successo secondo me perché è una ventata d'aria fresca, almeno all'inizio lo era secondo me, perché a me piacevano molto i design, perché avevano qualcosa di diverso secondo me. Sì, quello sì. Però adesso sono un po' peggiorati, appunto. Quindi tu dici che la qualità sta già un po' calando. Sì, secondo me sì. Sì, perché comunque è un prodotto che fa veramente tantissimi soldi, quindi nel senso, anche se dai un piccolissimo contentino così giusto per... Sì. Adesso secondo me il grande difetto è che siccome è così popolare, loro hanno fretta di far uscire la roba, quindi la fanno uscire sempre in fretta, poi si incasinano e hanno quei momenti in cui magari, non so... hanno problemi di sistema e cose così, e poi ti danno un contentino che è oggettivamente inutile, ma siccome il videogioco è popolare, allora tutti dicono, ah, guarda che bravo questo gacha game che ti ha dato un compenso per quando non funzionava. E, cioè, tipo, tutti i gacha game lo fanno dall'alba dei tempi, ma sì, presiamo Genshin Impact perché fa le cose basi, va bene. E poi... Esatto. Perché appunto quando c'è stato l'anniversario è stato traumatico per tutti, perché appunto la MiHoYo non si aspettava nemmeno che comunque tutti quelli che giocano pretendessero qualcosa, perché loro hanno, da quello che avevo capito, avevano puntato di più sull'altro gioco, questo Genshin Impact, e quindi c'erano più cose. Impact. Infatti poi hanno messo delle robe in mezzo un po' così, cioè hanno dato un po' delle cose a caso, alla fine qualcosa hanno messo, però hanno fatto delle live di emergenza per pararsi il culo, quindi. Sì, infatti. E niente, sì, questa Genshin Impact. Interessante, soprattutto questa cosa della Ok Impact, non lo sapevo. È avuto un successo super. Chissà, sarà stato il gameplay simile a Zelda? Saranno stati gli sbando più. Secondo me sì, quello ha fatto tanto. Ovviamente. Perché ormai una volta che la gente ha assaggiato Zelda, adesso ne vuole ancora. Esatto. Finché non esce il 2. E poi come gameplay, forse Genshin Impact è più interessante, perché oltre al gacha, appunto, questa parte un po' la RPG giapponese. Esatto. Bravo, forse uno di quelli, effettivamente tra tutto un po' quelli che ho visto, è uno dei gacha che offre anche di più oltre il semplice gacha. Sì, non è semplice colleziona le waifu navi da battaglia poi combatti. Che ricordiamo anche quello. In effetti si potrebbe fare tornare un attimo al discorso. Però sì, nel senso appunto offre un po' di più, era più... ha sfruttato un po' il fascino del nuovo Zelda, che come dicevo ha lasciato molti con la collina in bocca per avere di più. Comunque se gira sul computer, quindi inteso anche, può essere quasi, non dico equiparabile a un gioco sviluppato per quella piattaforma, però comunque ci fa competizione, quindi hai voglia. Sì, infatti. Jacopo, tu ci sei ancora? Perché non ti sento, voglio controllare. Non sia crashato. Ok. Sono andato un attimo dentro un tunnel. No. Grazie, tempo. No, cioè, stavo un attimo riflettendo su alcune cose, su alcune questioni che non mi aspettavo. In realtà, io devo mettere, sono un po' ignorante per la questione Genshin Impact. C'è una questione strana che mi sta girando dalla testa dall'inizio della puntata. Perché avete detto, forse Giulia l'ha menzionato, mi pare, che Genshin Impact, l'azienda che lo fa, è cinese. Sì. Quindi, conoscendo la Cina, sarà in parte posseduta dallo Stato, dal governo comunista cinese. Mm-hmm. Governo che, a quanto pare, è un po' contrario a Genshin Impact. E quindi questa cosa è un po' paradossale. C'è stata la questione dei design. Perché, allora, in Cina intanto c'è stato questo grande problema, mi sembra... qualche mese fa, tipo circa 2 mesi fa, era inizio ottobre, è entrata in vigore una nuova legge che dice, in Cina ovviamente, che dice che praticamente nei media popolari non si possono far vedere degli uomini effeminati, perché induce la popolazione cinese a diventare gay. Esatto, giusto, corretto. Funziona. È così che funzionano. Sì, effettivamente. E quindi ovviamente la MiHoYo, che aveva tutti i suoi... twink, se posso usare la parola twink, è andata ovviamente un po' nel pallone, perché cosa fanboy. Fanboy, no, si dice esatto, fanboy? Sì, aveva tutti i suoi fanboy, cioè è stato un casino, infatti... Sono bellissime queste puntate comunque, perché vedo Jacopo destreggiarsi tra te. Madonna! Non riescono mai. Metto all'opera tutto il mio conoscenza lessicale. Adesso tipo il primo fanboy che c'era in Genshin Impact, il più famoso, che è 20, lui gli hanno dovuto cambiare proprio l'intero character design, in cui è vestito in maniera più, diciamo, più virile, tra virgolette. Sì, e certo. Quindi se tu scarichi il Genshin Impact cinese, hai 20 che è diverso rispetto a quello di tutto il resto del mondo. Ah, ok, quindi non hanno censurato il gioco per tutti, ma hanno cambiato. Ok, però il fatto tanto che tanto ridere che la Cina censura per se stessa è quasi paradossale. Scusa Jacopo, continua. In realtà va bene, cioè qui ci sarebbe tutto un discorso da fare sulla propaganda asimmetrica cinese, che fa propaganda per la Cina all'estero ma poi non consente all'estero di fare propaganda, esatto, in Cina. Ci sarebbe da parlare di tante cose, però la cosa che mi incuriosisce è appunto che il design dei personaggi di Genshin Impact è molto appunto waifu, sbando, tutto molto giapponese e così, e la Cina è famosamente contro la questa tendenza che effettivamente è molto, è dilagante attualmente in Cina ma anche in tutto il mondo, verso questo tipo di estetica, no? Quindi è per, diciamo appunto, come dire voi, non far diventare le persone gay, vogliono censurare il più possibile questo tipo di contenuti, ma appunto mi fa ridere molto l'ipocrisia di avere un gioco che gli fa fruttare milioni e milioni di dollari al giorno e che quindi non possono chiudere, perché altrimenti appunto perdono questi introiti. Mi fa molto molto ridere. L'altra cosa che mi incuriosiva, che ancora non ne ho sentito parlare, è cioè, considerando che appunto abbiamo parlato di waifu sbando, tutti questi personaggi, da come li descrivete, mi sembrano molto, come dire, fighi, cioè sessualizzati, no? Nel senso, c'è, cioè, un po' l'estetica di questi personaggi li vende in un certo senso, no? Cioè, quanto sono fighi, questi personaggi sono belli, quanto sono sexy, eccetera. Ma questo, il tema della sessualità è trattato nel gioco? Ci sono dei riferimenti o è tutto molto infantile, è tutto molto, comunque rimane molto, diciamo, anime di base proprio, cioè anime... Claudio, viene un po' citata la questione di, come dire, diciamo di piacersi o cose così, però è una cosa molto pura, secondo me. Esatto. Insomma, in poche parole, Laura. Family friendly, ok. In poche parole, Laura, la ragazzina, quella spirito guida, no? Che mi sembra che ti... Paimon, sì. Che si chiama Paimon, sì. Però è un personaggio buono. Quanti secoli ha di d'età, mi chiedevo, perché alla fine penso sia quella la... Grazie, Marco. Voglio bene. È quello il problema, è tutto il resto. Che poi Paimon, col fatto che è anche tipo grandezza gnomo, non è tanto sessualizzata, però diciamo tutti gli altri forse un pelino di più, nel questo senso, penso sia parte... forse, Jacopo, un vaso di Pandora che non so quanto ci convenga aprire in questo momento. Marco, questo podcast è fatto per aprire vasi di Pandora. Sì. No, però cioè... possiamo dire che comunque c'è abbastanza varietà fra i personaggi e ci sono anche delle bambine per ora. Sì, che sono effettivamente bambine, cioè... Sono ragazze basse, sono proprio bambine. Oh no. Infatti lì è pericolosissimo, perché... No, però molti, cioè, nel senso, sono giusti, dicono, no, è una bambina. È una bambina, cioè, esatto, sì, quello è vero. E parla male, e parla come una bambina, sì. E non azzecca i verbi. Cosa. Ma questo non frena le persone, cioè... Sì, quello assolutamente. No, però devo dire, in Genshin sono abbastanza bravi, perché comunque sono un po' più contenuti su questo, per ora almeno, da quanto ho visto online. Almeno. Abbiamo visto tanta roba brutta, ma perlomeno, se riguardano questi personaggi qui, di solito fanno tipo la versione adulta del personaggio, sì, e poi la sessualizzano. E lì. Che gentili. Grazie. Sì, forse, guarda, io forse direi che voi... non conoscete parti legali dell'internet, mettiamola così, considerando che fare altrimenti sarebbe illegale. Però, cioè, come dire, il rischio c'è sempre, specialmente in giochi con questa estetica, quindi... Beh, mi sorprendo quasi dell'eleganza. Sì, infatti, no, perché comunque giocano tutti molto sul fatto del creare la famiglia felice. Sì. E tutti adottano questa bambina, esatto, che non si sa perché ha delle orecchie lunghissime, tipo quasi da elfo, che nessun altro personaggio ha nel gioco. E poi letteralmente è una bomba. Sì, e poi nel senso è proprio una bambina carina, cioè non dice mai cose discutibili, quindi. E poi perché sono doppi sensi, esatto, sono tutti concentrati genere su altri personaggi femminili che invece dicono doppi sensi o cose più sexy, okay, quindi è una deflezione, diciamo, che sono effettivamente donne adulte e dicono cose più spinte, potremmo dire. Okay, no, è interessante. Era la domanda generica perché so che anche questo è un tema abbastanza scottante in Cina e quindi c'è, è una cosa che ultimamente mi sta un po' ossessionando un pochino, nel senso, come, cioè, qual è il, come posso dire, l'output, cioè qual è il quello che esce dalla Cina come prodotto creativo, insomma, che cosa esprime, che cosa possono esprimere, cosa viene censurato e cosa no. E quindi, cioè, ogni tanto mi ci torno un po' al pensiero, tipo, non so se avete visto Arcane, la serie su League of Legends, no, ma ci sono alcuni elementi narrativi, alcune scelte di montaggio, alcune scene che vengono messe che non posso fare a meno di pensare queste sono state messe perché la Riot è al 100% Tencent, cioè c'è una società Tencent che è un conglomerato enorme cinese, quindi controllato da CCP, dal governo cinese, che ha completamente il controllo della Riot. E quindi i design dei personaggi di League of Legends sta cominciando ad assomigliare al design dei personaggi di Genshin Impact, cioè nel senso... Paradossalmente, cioè... Cazzo, hai ragione. Gli ultimi personaggi usciti sono molto anime. Ovviamente non è solo Genshin Impact, non è solo Tencent, per carità, però è una tendenza un po' globale. E quindi, cioè, mi fa un po' paura l'idea che... già, ne abbiamo parlato nella puntata, quella lì, sull'episodio 9, già la sessualità in Giappone è problematica, diciamo. Cioè, nel senso, è una cosa di detto, non detto, più non detto. Che magari poi con questo filtro cinese, vabbè, comunque sia, ok, avete risposto, insomma, alla mia curiosità. Immagino che poi ancora, insomma, ancora di meno. Insomma, sì, allora... Scusa. No, vabbè, di pure. Volevo dire solo, per semplificare, in pratica bisogna dire che per ora i cinesi sono molto meno lolicon dei giapponesi. Ok, questo, vedi, è positivo, ok. Grazie al cielo. Esatto. Meno male. No, anche perché, nel senso, hanno fatto i personaggi, cioè i personaggi femminili, anche, diciamo, quello che rappresenta il body della ragazza giovane, perché c'è la donna adulta e la ragazza giovane e poi la bambina attualmente. Cioè, per body intendi la corporatura? Sì, proprio la corporatura. Il modello, diciamo. Il modello base. Ok. Alla fine sono bene o male tutti uguali, si differenziano in questi tre. E comunque la ragazza giovane è già, nel senso, ha un corpo da ragazza sui 18 anni, tra virgolette, cioè nel senso, sì, non è comunque una loli, no, è vista come già una ragazza adulta, però proprio giovane. Poi c'è la donna adulta che, insomma, alziamo le mani, diciamo, grazie. Esatto. Cioè, nel senso che oltre a essere una donna adulta è anche più, non so, magari è più alta, è più formosa, ma non in senso magari propriamente volgare, cioè non è proprio la classica clessidra ipersessuale. Super hentai, super giapponese. Sì, esatto, non è super hentai, però è comunque più... sì, è più formosa, diciamo. Sì, però in senso positivo, esatto, è più... In senso positivo. E questo anche per quello maschile, sì? Immagino. No, invece quello maschile, sono più interessati, come dire. Stanno peccando, perché comunque, allora, di base, attualmente, ho fatto anche il conteggio, siamo circa a una quarantina di personaggi. Oh no. Ok. Sono circa 40 persone, poco meno, perché comunque ho guardato una lista che fa comunque vedere il protagonista e, diciamo, spoiler, il protagonista può cambiare elemento a piacimento. Spoiler, non è spoiler. Spoiler. Comunque tranquilla, ci sono stati spoiler ben peggiori. Sì, no, per carità. Spoiler che non è spoiler, perché comunque il personaggio che tu vai a pescare nel gacha ha un solo elemento e quello rimane. Invece il protagonista ha ovviamente la particolarità, perché è il protagonista e può cambiare elemento tramite un metodo. Sì, cioè, vabbè, sì, sorry, è inutile spiegare, sì, esatto, però può cambiare elemento. Però può cambiare elemento, quindi per ora diciamo che può utilizzare tre elementi, quindi diciamo la lista era un po' più allungata del previsto, sì. Però sono circa una quarantina, poco più, poco meno. E tre quarti, ahimè, sono tutte donne. Perché di uomini ce n'è veramente pochi, e quei pochi che ci sono comunque ragazzetti, no? Quindi... l'uomo adulto comunque non è tipo non è molto virilato. Ah, mi sa bene comunque... non ci sia il papparino di turno, il classico quarantenne. Non ci sono. No, lo hanno vagamente messo adesso con Itto, no? Sì, ma Itto è già un po' più buff, diciamo. Sì, ma ce li hanno la tartaruga che ha è disegnata, cioè non è scolpita, è disegnata col pennarello. Grande. No, perché allora ha un character design che è un palestrato, cioè non dico The Rock, però insomma, cioè messo bene, piacente, l'hanno anche fatto seminudo, insomma è bello da vedere, no? E poi quando abbiamo visto il modello 3D, tutti ci sono rimasti male, perché comunque ha delle braccine che sono le mie e io non faccio palestra. Cioè tu dici, cazzo, un uomo del grande grosso c'ha le braccine che sono lì, cioè non c'ha proprio segno di muscolo, no? È proprio dritte. Sì. E fa ridere. Non si stanno sforzando di fare gli uomini particolarmente virili. Sì, infatti, quando hanno fatto vedere appunto questo, tutti hanno detto che schifo, no? Tutti delusi, tutti in lacrime. Sono rimasti uomini, donne, tutti delusi, perché appunto fa schifo, no? Tutti a strapparsi i capelli. E in risposta la MiHoYo cosa ha fatto? Ho detto, aspetta che ci penso io, risolvo la situazione. Ha aggiunto dello shading agli abs. Wow. Quindi, wow. Per farli vedere più scolpiti. Stupendo, bellissimo. No? Ha applicato mascara e... Forse è tutto così semplice. Adesso me li disegno anch'io con mascara. Sì, cioè io ve lo farei vedere, perché comunque fa veramente ridere, perché la differenza tra l'art ufficiale e il loro prodotto, cioè le metti a confronto, sembra tipo... Sai, le foto meme delle action figure della versione bootleg dell'action figure. Sì, cioè, l'ho comprato dai cinesi e quello originale. È un po' così, cioè, è tremendo. Quello original e Netflix adaptation, una cosa del genere. Sì, esatto, sì, più o meno quello. Assolutamente. Meme. Questo vale un po' per tutti i personaggi, perché comunque nelle arti ufficiali hanno tutti i capelli molto vaporosi, no? Hanno dei visi un po'... c'hanno tutte delle, ognuno di loro ha delle espressioni, perché appunto a livello di carattere c'è, cioè, ognuno è così, una c'ha il sorrisetto un po' beffeggiante, non so cosa sto dicendo, l'altro è sempre un po' più serio, però alla fine se tu guardi il modello 3D sono tutti molto piatti ed è molto triste secondo me, perché basterebbe quel pochino di più e sarebbe top, secondo me. Sì, quello è vero. Almeno si impegnano, perché non ne hanno voglia, tanto poi guadagnano comunque tantissimo, quindi... È sempre per il discorso di prima, che hanno fretta di buttare fuori roba. Ok. Sì. Wow. Okay. Non so, inizio un attimo a tirare un po' di più le redini della puntata, perché ci stiamo avvicinando quasi alle 2 ore di registrazione, non vorrei che... Sono volate in effetti, perché effettivamente è bello ogni tanto avere il parere di qualcuno che ci ha portato un mondo a noi abbastanza estraneo, perché io, come dicevo, sapevo un po' di concetti teoricamente, ma mai fatto troppa esperienza. E allora, Jacopo, se mi permetti solo, prima di passare al nostro ultimo momento finale della serata, della puntata, avrei solo una domanda da fare a mia sorella e ovviamente a Giulia, se mi danno una mano magari anche a... perché io mi piacciono troppo queste cose, a citare qualche... come dire, non voglio tornare a fare le puntate elenco, ma qualche esempio di... gacha magari famosi che possono far passare un attimo forse di più il concetto di Usbando e Waifu che... Love Live. Allora, no, secondo me... Perché prima domanda, scusa, la mia domanda che non mi ricordavo era appunto, ma Cancolle era un gacha? Ho dei dubbi. Sì, Cancolle era un gacha. Spieghiamo al nostro gentile pubblico cos'è Cancolle, che quello non me lo dico. Allora, Cancolle? Ma poi questo è il mio setting, è Cancolle, Voi dovete rendervi conto che di gioco come Cancolle, a livello di appunto quello che sta per dire lei, ce n'è tantissimi, cioè nel senso, ma veramente tanti. Hanno fatti di ogni, con ogni oggetto, con ogni animale. Andiamo con ordine, perché Laura, che cos'è Cancolle? Allora, Cancolle, abbreviazione di Kantai Collection, è un gacha games in cui tu sei, diciamo, un ammiraglio, se non sbaglio, insomma un comandante di navi, e tu comandi però delle navi che sono ovviamente, siccome parliamo di giapponesi, sono ovviamente umanizzate e sono tutte belle ragazze. Ok. Quando ho scoperto una cosa, cioè praticamente il concetto, io non so se è partito tutto con Cancolle, nel senso Cancolle è iniziato e tipo tutti gli altri gli sono andati dietro, tipo Cancolle no. C'era già e Cancolle è semplicemente esploso. Allora qui, guarda, ti faccio anche una piccola cheat culturale, perché ho letto giusto l'altro giorno un articolo scritto dal mio professore di giapponese sulla fissa dei giapponesi per umanizzare le cose. Okay, è un articolo serio uscito, pubblicato dalla mia università. Allora, la prima cosa che ha spopolato di umanizzazione è stata ovviamente Italia, non so se... No, per dirlo io, cazzo, era un fan di Italia. Meno male che non c'è il gaccio di sta cosa. Esatto, quindi Italia è stata la prima cosa che ha fatto spopolare questo concept di umanizzare. Da lì poi sono partiti un tot di anime e di manga. Aspetta. Cos'era Italia? Spiega, perché è stupendo. Il concetto allora, Italia è ridicolo. Un anime / manga in cui praticamente ci sono, diciamo, narra la storia mondiale in cui però ogni nazione è umanizzata e quindi c'è un unico personaggio che c'è il personaggio di, non so, di Italia, di Giappone, di Germania e così, che interagiscono fra loro raccontando... Avevano anche dei nomi idiotici, come si chiamava Italia? Italia si chiamava Feliciano, se non sbaglio. Ma poi la cosa divertente, non si sa perché, ma era diviso in due, che è molto realistico. Sì, perché Italia c'era Italia del Nord e Italia del Sud. Ed è molto realistico, no? Sì. Se ci pensiamo, è molto realistico. Sì. Infatti non so come abbia fatto il signori... Non perdiamoci in Italia, però no, altrimenti 4 ore di podcast, dopo non li scarica. Esatto. Comunque sì, Italia ha fatto partire tutto e da lì ovviamente... si sono reso conto che questo concept applicato ai gacha games ovviamente può solo spopolare, perché vuoi mettere quanti bei character puoi produrre. Armare e quindi tale. Ovviamente è stato uno dei più celebri, diciamo, tra virgolette maschile, perché come target gli uomini è appunto Cancolle, e uno dei più celebri invece femminili è Token Rambu, che ha praticamente lo stesso concept in cui tu sei una storica. E però diciamo le cose umanizzate sono le spade famose della storia del Giappone. Dico. Che sono umanizzate e sono molto belle. E tu sono letteralmente dei forti. Mi fa troppo ridere quando ho scoperto questa cosa. Che ci sono proprio le navi, però, cioè, però il punto, Jacopo, tu non so se devi cercarti qualche immagine online, tu devi immaginare la ragazza proprio classica, anche vestita abbastanza, un po' da studentessa molto spesso in giapponese. Classico. Certo. Però che c'hanno tipo i cannoni della corazzata ai fianchi o sulla schiena. È chiaro. E a me ha fatto troppo morire da ridere quando l'ho scoperto. Marco, è tutto chiaro, è l'idea più banale del mondo. Navi da battaglia che in realtà sono ragazze, non capisco... Cioè... Scusami, non volevo sembrarti pedante. Chiaro, no? Però comunque chiedevo, Laura, se avevi altri esempi lampanti, come dire, questo fenomeno. Infatti che... stavo per citare, secondo me, uno degli esempi più lampanti di gacha che sfrutta Usbandi e Waifu, secondo me, è Fate Grand Order, perché più di lui non ha mai fatto nessuno. Perché in Giappone ha raggiunto dei livelli allucinanti. In Giappone addirittura ci puoi giocare anche in modello arcade. Sì, ci hanno fatto anche un pachinko in Giapone. Sicuro, ci hanno fatto il pachinko di Metal Gear. No, non dovevi dirlo, Marco. Ora che l'hai detto, purtroppo hai attivato la mia carta trappola. E siamo arrivati alla fine del podcast. Non so, volevate aggiungere qualcosa? Scusa, ho interrotto. No, no, io volevo giocare a Genshin Impact. No, volevo citare quello che, a parte quello che appunto Fate, che ha fatto tantissimo perché, diciamo, soddisfa sia gli uomini che le donne, perché è pieno zeppo di waifu e di usbando, sfruttando questo concept dei, come dire, personaggi storici slash personaggi della vengono umanizzati in questo caso. Vabbè, sì. E gli viene anche cambiato sesso a volte quindi... sì. Vabbè, non entriamo in Fate, sennò veramente no, altro infatti. Che podcast. E volevo solo citare che un'altra forma, diciamo, molto celebre di gacha games sono i rhythm games, che poi hanno le carte dei personaggi da fare in gacha, come per esempio Love Live, queste cose qua. Questo non lo sapevo nemmeno io, pensate. Quindi, cioè, nel senso, sblocchi i personaggi con cui che poi fai ballare, in che senso? Cioè, no, nel senso che tu hai i rhythm games tipo, non so se hai presente Osu. Sì. Sono fatti così tipo Osu, oppure come Hatsune Miku Project Diva, per intenderci. Certo. E tu fai le tue partitine, dopo puoi fare delle pescate e poi devi sperare di trovare la carta, cioè non so, hanno magari lo stesso personaggio in un tot di carte in cui hanno outfit diversi, fanno cose diverse. Sono più rare. Sono più rare, alcuni non so, magari hanno... Ah, tipo, quindi sblocchi passi di danza, sblocchi canzoni, cose del genere. No, no, lì è proprio solo una cosa estetica, cioè tu fai... Ok, beh, allora sì, sono... Tipo loot box, allora, questo è più esatto, loot box, sì, sì. Però nel senso, tu poi ottieni queste carte, ma alla fine, diciamo, lo scopo del gioco è tipo collezionare queste carte, non, cioè non ah, c'è vabbè, una storia. No, allora lì, forse sì, è gacha, non so, ecco, è quello lì, dove inizia il gacha, dove inizia il collezionismo, dove... Sì, però no. Pure lì puoi usare i soldi veri, quindi nel senso, per cioè, me succede... Anche in Overwatch è per questo, è quello, vedrà quello, un po' dove inizia le loot box, dove inizia il gacha. Ok, non apriamo altri discorsi perché, come dice Jacopo, forse è meglio no, che ci accingiamo alla chiusura. Assolutamente, grazie mille per la conoscenza enciclopedica. Quindi, non so, volevamo dire qualche... Kojima ha fatto gacha game. Aspetta, sigla! Ok, non so se avete sentito, ma... È sentito un po' male a sto giro, però... Aspetta, allora... Proviamo un'ultima volta. Allora, aspetta, provo a rimetterla, ma sarà complicato, perché... Com'è che non si è sentita stavolta? L'avevo messa tipo un centimetro dal microfono. Rimasto? Waiting, huh? Ok. Ok, ma un po' meglio. E adesso sì. Meglio di così non può fare il povero Snake. Prego, mi sa che a questo punto avevi tu preparato qualcosa. Al momento Kojima. Kojima è un giapponese. E quindi... Dobbiamo parlare delle B&B per waifu o... Possiamo parlare, allora, possiamo evitare quell'argomento, mettiamo che... Meno male. No, vabbè, a livello di, come posso dire, di gameplay, forse Death Stranding è quello che un po' più si avvicina al, come posso dire, al feeling, no, di... dei gacha, di queste missioni procedurali. Ci sono le stelle, se ci pensi. A tempo, ci sono le stelle. No, vabbè, alla fine... Se una cosa, in Death Stranding si vede molto un po' la cultura giapponese di questi, appunto, tutti quei pupazzetti portachiavi e cazzatielle che ogni tanto Sam ottiene completando le missioni, di sicuro quello ha preso ispirazioni da... assolutamente dal mondo dei gacha, tutti quei personaggi cibi che sblocca e cose del genere. Quelli, finisci pure. No, qualcuno stava provando a parlare di là, non so... No, Giulia forse stava se dicendo. Giulia sta... No, io ho solo detto marsupio con neonato dentro. Mentre sì. Diceva... Oddio, cazzo, è vero, è un gacha! Lui è un gacha, il neonato. Coraggio. Se ci pensi, poverino, vabbè. Voglio il gacha, la macchinetta gacha di Matt Mikkelsen. Non di Death Stranding, proprio solo di Matt Mikkelsen. In tutte solo film. Varie versioni di Matt Mikkelsen. Esattamente. Madò. Cioè, una delle cose che più mi avvicinano a Kojima, cioè che proprio lo fa sentire, lo sento vicino come un fratello, e quando ho scoperto che tipo lui faceva le foto a casaccio a Mads Mikkelsen mentre fumava, mentre si grattava. Relatable, cazzo. Cioè, lì cioè, ha capito tutto, nel senso... Volevo che ero io. Comunque, vabbè, In realtà no, di Kojima non c'è molto da dire, la meccanica gacha per fortuna ancora non l'ho scoperta. C'era forse qualcosina in qualche Metal Gear, tipo Metal Gear Solid 3, ma sinceramente non ricordo. Ovviamente la Konami invece ha deciso di farci macchine pachinko e roba del genere, ma questo non riguarda Kojima. Quindi boh, sì, in realtà no, non c'è molto da dire. Kojima lo teniamo buono, se non che probabilmente, chi lo sa, magari lui a lui piacciono i gacha, chi può dirlo, chi lo sa, magari penso che gioca Fate, Kojima ovviamente. Kojima gioca a Fate, perfetto, fantastico. Ma guarda che se scopro che è vero poi ci potrebbe stare. Quindi noi siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. A cottura. Come, scusa? Siamo arrivati a cottura. Sorry. Cottura. Abbiamo finito la collezione di aneddoti in questo caso, abbiamo sparlottato di Genshin Impact e dato una panoramica sul mondo dei gacha che, come diceva a me, fa un po' preoccupa da un certo punto di vista, ma l'udopatia sempre bisogna starci attenti, ma dall'altro lato mi fa sganasciare ogni volta che vedo cose umanizzate e cose del genere. Quindi vorrei ringraziare ancora le nostre ospiti che sono state qui con noi. È stato un piacere ospitarvi quando volete. Io non so se abbiamo finito gli argomenti noi, quindi vediamo, dai. Troveremo qualche altra stronzata di cui parlare. Quindi che dire, io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. Io sono ancora Laura. Forse io forse sono ancora Giulia. Forse. Beh. Oggi sì, quindi domani non so. Perfetto, l'unico che è cambiato qui è Marco, come al solito, l'unico che è voluto. Si è voluto. E continuate a giocare. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao ciao.